Ehi, sai che c'è di caldo, cioè, caldo. Dimmi Luca. Io ho detto che c'è caldo. Anche qua. Sto come mutande, gioco. Ah, mi ne devo come Luchissi. Come puoi girare dentro casa? Aspetta un attimo, tu. Ehi, vai, che scendo giù un attimino. Andiamo, ora andiamo. Ehi, Lu. Ehi, aspetta un attimo, che devo... Aspetta, un bigliettino, vediamo un po'. Questo meccanico, me lo metti? Vai, mandalo una volta, esista. Così, gravando. Senza appunti. Andare. E che c'è un meccanico? Il mio amico Giuseppe, bravo marito, Ma Giuseppe Pintus? Cappa, lo conosci? Grazie per il mio bambino, E c'è un meccanico che fa di macchine di via, cioè, non è un meccanico così, no. Fiat, Alfa, dentici marchi. Tu pensa che lo conosci, oggi 46 anni, dentro una 50. Una vita, abitava dietro casa mia. Te lo conosco, Tozzo, in barbetta. Tozzo, grasso, Te lo conosco bene. C'è una vicina in via Verona, lì, dietro. Sì, proprio quello lì, bravo. Proprio gusto, sì. E poi la dovevo comprare da lui la macchina. Solo che il tipo se l'ha venduta. Cappa. Già è bravo qui su, un meccanico, ha fatto travagli pure un amico mio, gli ha fatto la frizione, gli ha fatto. E va. E via. E anche a Maria una porta a Portuello. Scatta la porta, mi domando più di 2000 euro. E io sono appena 250 euro, ha fatto la frizione di nuova. Gli ha fatto... gli ha cambiato... Non sono accorti alla Ford, cazzo, che mancava lui nel cambio. Cioè, è uno schifo, va. Messaggio, lo sai, aspetta a proposito. Chiamato il messaggio là fuori, vediamo. Riesci a vedere. Poi sono cancellato. Vita rosso, marina. No. Troppo, no. Quindi timoro. IMS, dentista. No. Quindi attesca. No. Ce l'ho più, l'ho cancellato. Comunque che aveva uno sconto, non so che cosa. Ebbe due sconto, minimo per fare la prigione vuole 1000 euro. No, non vuole 1000 euro. Però, come si dice? Gli ha preso, sì, 50, gli ha fatto la frizione. Poi gli ha saldato un pezzo di sotto che si è risaldato, che no, la porta non siamo ancora accorti. Tu pensa che la porta è rimasta oltre 2000, sta giù di tutto, però che è 250 e gliela sistemata per bene. Lo so, ti sto facendo la Ford. Quanto 2000 euro? Vai, ho detto qualcosa, pezzo di merda, che c'è di dire ladri, c'è di. Infatti. Aspetta un attimino, ecco. Purtroppo sono ladri, sì. Disonesti. E tu pensa che stavo fatto un giro mano per capire da dove proveniva questo rumore, questo perde così la macchina. Cazzo, non sono resi conto che mancava loro nel cambio. Che sicuramente è di figlioli di buona mamma. Anche se sono figlioli di buona mamma. Cosa hanno fatto? Guarda, ne vado a porta perché ha venuto qui sotto. Che mi pare qui, cazzo, meccanici della Ford che sono super... cioè sono bravissimi a modo di lì, bravissimi, hanno la trattatura giusta per fare, c'è una cosa seria, ecco, non è come un'officina che hanno di meno attrezzatura. se ne sono accorti che mancava lui al cambio. Sono bravi chi si, a fare un conto sono bravi, chi si tiene da nevame? Ma non mi fa vedere altra bravura, ma lascia perdere. Lascia perdere lui, lascia perdere. Che chi su Giuseppe li fa di 20 a 0 li fa di a contenere le macchine. Lo so, no io faccio bravo, poi a voi. Già ne fa. Che se vuoi fa? Sono tutti cantano a Recci, so che c'ha niente. Di cudine in una susa, di cudine che la metà è bassa. Ma perché li portava sempre la macchina, non capisco. Perché lì l'ha comprata nuova la macchina, capito? Ma la macchina che c'è dai, no? Non ne vale la pena di portargliela. Vabbè, cosa vuoi dire? E dai, arrivava sempre in chibi. La portava sempre lì. È bravo Buru, cosa mi? Chi si vive per venire a casa tua, a Idini? Sì, anche quello è bravo, ma è caro. Come perché è caro? Ma è canto la Ford però. Vabbè. Alla Ford che lavorano quanti operai di sono, 20 che operai a tu. Vedo una, uno, due. Scappa, ma no, non andava però così. Non andava così. Io se no non è che la Volkswagen, ti c'è bideggia, nemmi. Allora, tu conta, la macchina quando mettevi la retromarcia non si accendevano le luci, infatti pensavo fossero le lampadine, invece le lampadine sono buone. Perché le ho controllate, sono buone. Praticamente sotto il motore c'è questo bulbo. Quello lì che comanda, no? Quando tu metti la retromarcia, questo qua sgancia. Si accendono le luci dietro. Facciamo passo lui su che costa, boh, mi pare 20 euro, 80 euro gli hanno chiesto. Lo so già, cudini forse, cudini. Cudini forse, e se no non è venuto un Sanreno. Ogni amare chi li venga, chi si buttinose, che una voce a buona gordicella di Rugonta a chilometro, un pezzo di cosa così del Renault 19, 200 e passa euro, un pezzo di cosa così che non si varia nulla, così è, poi un po' gudata, che buona che si anda. Lo so, ne ha speso Marina, cazzo, ne ha, come si chiama, di tagliandi, ce ne ha di, come si dice, di... fatture, insomma che ne ha. Se ti va un giudico ti dice la macchina nuova. Ma che fa male a portarla lì, ma poi gabbo. Ma infatti già la porta a Pippo. Cappa, oi. No, dalla borsa che va via maghi da macchina. Non abbiamo più comprato macchine di straniere, perché ogni volta c'è un coso, un salasso che da comprare i bezzi. Lo so, sono cariche. Ah, Begliardo, dopo è sempre Fiat, no, Begliardo. Diciamo che la Fiat, che c'è questa grande macchina, comunque, già vanno bene, dai. Già vanno bene. Secondo me le migliori sono... Vabbè, la Renault è buona, lo stesso, non sembra un po' fame. La Renault poi ti chiama l'Alfa. Farò me il gruppo Fiat lo stesso, ma sono fatte bene, sono, vanno bene, vanno, ora che abbigli, per carità, per gli arrenù, sono cazzo, tu sono cari i pezzi, e poi no, non sono così buone, no, lascia perdere. Non lo so. Caso strano, molte case vogliono motori Fiat, vogliono, molte case che costruiscono macchine, caso strano. Come te la si tu paga l'uba cosa? No, ma portate da voi, per carità. Pago... Cosa c'è Lu? Ho detto la portante. Ah, sì, diplomateci signori, Ma non dice diplomateci guaio. Mi sa tanto di sì, ma perché fare queste cose? Non capisco. Io non capisco perché comportarsi in questa maniera. Perché c'è l'Alzheimer. Boh, è proprio gente che cioè, non fa bene, mi vuole Maria può farrarsi, ma cazzo, ma porca, ma perché non sei tranquillo? Cioè, ma io no, qua veramente no, non riesco a capire. E io ci prenderò, giuro. Cappa. No, no, non riesci a comprendere. Guardate, di macchine per prendere la giura. Cappa. Dopo il fallo. No, c'è gente che non sta bene con se stesso, perché no, non è possibile. Non è possibile assolutamente. E io, vabbè, può fare un incasso del genere, vuol dire che c'ha problemi seri. Sicuramente. Perché una persona sana non le fa queste cose. Sì, ma perché se potevamo stare tutti amici, tutti riuniti? Cioè, ma perché fare queste cose? Vabbè, contento lui. Contenti tutti. Capa, poi mettere già tutti amici. C'è uno una di andava con un altro, zeminato, dica che arrucida, che cosa. Cioè, ma perché sei nemici? Cioè, faccio i nemici. Cioè, ma dai, ma passi così qua, me lo cuto quel paro dai vedo. Cioè, per essere una persona così deficiente. Ehi, magari lo farà. No, veramente, per essere così deficiente uno prende la pistola e si spara, perché no, non è possibile qua, non è possibile. Cioè, invece di andare tutti d'accordo, tutti uno, cioè, si dà una mano con l'altro, ecco, cioè, boh, veramente, oppure è importante a fare la guerra e dire il coglione al prossimo. Ma perché essere così, boh? Ma di là me. Io che voglio semplificare di come si dice? Di stare tranquilli, cioè stare tutti assieme, invece troppo. È un casino. Sai cos'è? La persona stupida ce l'ha per tutto, sia nella vita reale che nella vita virtuale. Lo so, ma io la penso diversamente. Idem, come te. Cioè, non la penso diversamente. È che purtroppo è così. Vabbè, ma per me sono tutti amici, cioè. Non mi piace a me fare queste cose, cioè fatti la guerra. Ma perché? Ma. Non ho mai capito, non lo capirò, perché essere così imbecille. Dillo a me. Anzu. Dillo a me. Cappa. Vabbè, comunque informati per quella situazione. Ma io accendo il computer oggi. No, oggi non c'è tutto il giorno. Vabbè. Va bene, comunque già è tutto quanto, come si dice, è tutto previsionato, stai tranquillo. Sì, mi sono accorto che funziona benissimo, Lu, mi sono accorto. Ehi, Yara, va bene tu, che anch'io c'ho sonno, là, che sono dalle 3 sveglio. Ci sentiamo domani, ciao. Ciao, ma togliamo una curiosità al volo, ma gliele hai aggiunte tu le altre porte USB o c'erano già? No, quelli c'erano già. Capa, già va bene, cavolo. Ora va bene, no, benissimo. Ciao, buonanotte. Ciao Andu, ciao, buonanotte anche a te, ciao ciao.